Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a voi tutti ascoltatori. In queste giornate di primavera il cinguettio degli uccelli ci fa percepire maggiormente la presenza degli altri animali intorno a noi. Quella di oggi è una puntata monografica in cui parleremo di loro e di come le nostre attività e infrastrutture abbiano condizionato i loro territori e i loro necessari spostamenti, ma anche di come recenti progetti stiano affrontando questo problema. Una breve lettura dal libro Roadkill, danni collaterali di Michele Speranza, che parla di animali vittime della strada con un ampio repertorio fotografico e riflessioni compassionevoli sulle stesse, ci accompagna direttamente al nocciolo della questione. Quanti sono quelli che rallentano? E quanti sono disposti a fermarsi per non investire un animale? E quanto deve essere grande un animale perché questo avvenga? Dico così perché per me la questione ha cominciato a porsi in maniera concreta quando già da un po' abitavo a Compicozzoli, un podere sulle pendici di Monte Giovi, dove per raggiungere la casa si percorrevano 2 chilometri di sterrato. In certe stagioni, di notte, la strada era invasa di rane. L'auto le sorprendeva in mezzo alla strada, immobili, ritte sulle zampe anteriori. Avanzando a velocità elevata, non le si distingueva dai sassi. Ci ho messo tempo a capire, a fare lo slalom e a fermarmi, a scendere per allontanarle col piede. Quanta fretta vale la vita di una rana? La nostra inchiesta nasce dalla storia di un'amica che da anni si batte per il benessere e i diritti degli animali e che gestisce una colonia felina a Castelfiorentino. Di recente ha dovuto forzatamente adattarsi alla convivenza con una importante nuova arteria stradale. Siamo andati a verificare la situazione e a raccogliere la sua testimonianza. E sono in compagnia di Sofia, la cui casa e colonia felina si trova a meno di 50 metri dalla nuova strada a scorrimento veloce SR 429. Sofia ci spiegherà esattamente quali sono le problematiche e che tipo di territorio sia questo. La strada è una strada a scorrimento veloce che collega Empoli a Siena e questo è l'otto quarto ed è forse il tratto più critico in quanto attraversa un corridoio biologico, quindi un territorio ad alta naturalità, scarsamente urbanizzato, scarsamente antropizzato, almeno fino a dicembre quando la strada è stata inaugurata. Le problematiche che rileviamo come residenti non riguardano solo chiaramente il disturbo dall'inquinamento acustico, ma soprattutto il danno ambientale che questa zona ha subito. In primis perché non ci sono protezioni sulla strada, quindi protezioni per gli automobilisti e per gli animali che chiaramente abitavano questo territorio, perché appunto ricordo che essendo un corridoio biologico è altamente popolato da specie faunistiche di vario genere, dai selvatici, quindi ungulati, cinghiali, caprioli e quant'altro, ma anche altre specie, quindi istrici, tassi, volpi e gatti randagi, perché qui è un territorio, essendo appunto di campagna, altamente popolato anche da felini. Vedo che lungo la strada sono state messe delle reti, probabilmente per impedire agli selvatici di passare, ma mi sembra che siano poco efficaci. Ci puoi dire qualcosa a riguardo? Sì, allora, prima dell'apertura della strada, visto che le voci dei residenti non venivano ascoltate, è nato il comitato 429 Sicura, che chiede la sicurezza a 360 gradi della strada, e questo implicava anche delle reti di protezione, che tra l'altro previste dall'atto dirigenziale. In realtà sono state messe delle reti a maglia sciolta, non su tutto il tratto, ma solo su circa 500 metri, quando secondo i residenti, che comunque conoscono bene il territorio, sarebbe necessario forse coprire l'intero tratto e con reti adeguate, reti quindi antiscavalco, reti più solide, interrate, cosa che adesso non sono, perché appunto queste reti non sono interrate, non sono stabili e permettono comunque il passaggio ad animali di piccola taglia, sia da sopra, quindi scavalcando, che da sotto, proprio perché appunto dovrebbero essere in profondità, cosa che non sono. Mi sembra di notare che, fra l'altro, queste reti per un lungo tratto siano solamente da una parte, quindi gli animali che arrivano dalla parte in cui le reti non ci sono possono attraversare la strada e poi trovarsi a doversi bloccare davanti alle reti del lato opposto. Questa è un'altra problematica che abbiamo sollevato, abbiamo fatto presente questo rischio, perché essendo un tratto scoperto, l'animale che entra da quel lato della carreggiata troverà la via di fuga ostacolata e questo potrebbe generare panico nell'animale stesso, che potrebbe prendere una direzione incontrollata e inoltrarsi anche lungo la galleria, che è vicinissima. Poiché la strada è rialzata, vedo che ci sono dei passaggi sotto la strada, mi sembrano però ostruiti. Sì, sono prevalentemente passaggi idraulici, ci sono un paio di sottopassi di 4-5 metri, ma sono in realtà dei passaggi carrabili, mentre i passaggi che sono stati indicati come passaggi idonei all'attraversamento degli animali di piccola e media taglia sono in realtà dei passaggi idraulici di dimensioni ridotte, più o meno 60-70 centimetri, e comunque completamente ostruiti dalla vegetazione e dal fango. Lungo la strada, poco distante, scorre un rio dove sicuramente gli animali in periodi di siccità andranno ad abbeverarsi, quindi si troveranno a dover attraversare la strada? Sì, inevitabilmente. L'unico passaggio reale che hanno è sopra la galleria, però chiaramente la galleria è circoscritta. Il resto della zona, il resto del corridoio biologico si trova attraversato dalla strada e quindi l'animale è costretto ad andare a quella che è l'unica fonte di abbeveraggio durante l'estate, dovrà in qualche modo attraversare. Se non trova passaggi, l'unico è attraversare la carreggiata, facilmente attraversabile proprio per la mancanza di reti di protezione. Voi come comitato avete fatto presente alle autorità competenti questi problemi? Siete stati ascoltati in qualche modo? Assolutamente sì, nel senso che l'abbiamo fatto presente più volte, ma non abbiamo ricevuto risposta, non i nostri inviti al dialogo sono caduti nel vuoto, abbiamo chiesto incontri o un tavolo per poter discutere di quelle che potevano essere le soluzioni, ma non c'è mai stata data risposta, i nostri inviti sono sempre stati respinti e di fatto quando ci sono stati dei sopralluoghi non siamo stati mai invitati a dire la nostra. Quindi che cosa sarebbe opportuno chiedere a questo punto? Una rivalutazione tecnica per valutare se effettivamente queste protezioni sono adeguate o se invece sarebbe necessario adottare degli ulteriori accorgimenti o addirittura modificare le barriere con delle barriere di protezione realmente efficaci. Chiaramente la strada è necessaria, è un progetto vecchissimo, collega Empoli a Siena, quindi è una strada che ha una sua utilità, il progresso non si può arrestare, però è anche importante che questo vada in qualche modo di pari passo con la tutela dell'ambiente, che oggi è una necessità. Love you no more. Swiftly, won't pull me under. something I'll do. I've done something, reshape all my life. Don't kiss me goodbye, just kill the lights. I don't love you now. Follow your moves, baby, you're my room party. I'm on a cloud, there is smoke in my eyes, you know. Dopo aver ascoltato le parole di Sofia, abbiamo cercato di capire se e come si muovano i politici e i tecnici a livello nazionale e europeo per fare fronte a queste problematiche. Sono in collegamento telefonico con Marco Dinetti della LIPU, responsabile di ecologia urbana, e in LIPU BirdLife Italia. Vorremmo parlare in generale del concetto della mobilità della fauna selvatica, oltre a illustrare le linee guida europee, se ce ne sono, in merito alle reti ecologiche. Quindi capire come, in generale, su tutto il territorio nazionale, la pianificazione abbia o non abbia tenuto fino a oggi in considerazione la fauna e le sue necessità. La legge 157 del 1992 recita: «La fauna selvatica è patrimonio indispensabile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale». Ma quando vengono costruite strade o pianificate infrastrutture, sembra che non si tenga conto della stessa esistenza degli animali selvatici e del loro diritto di spostarsi sul territorio o in cerca di risorse. Secondo lei c'è un conflitto di interessi tra la tutela della fauna selvatica e la nostra idea di progresso? Innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Diciamo che in teoria non ci dovrebbe essere, perché l'economia e l'ecologia dovrebbero andare di pari passo e ormai da diversi anni si parla di sviluppo sostenibile. Purtroppo in concreto non sempre questo si determina. E torno alla prima osservazione, nel senso che gli animali selvatici, alla pari di noi esseri umani, ma anche le piante, che magari non sono in grado di spostarsi direttamente, ma lo fanno attraverso i semi, hanno tutti questi esseri viventi necessità di muoversi sul territorio per sopravvivere. E questo è legato ad aspetti genetici, nel senso che gli esseri viventi devono avere la possibilità di rimescolare il proprio patrimonio genetico, e per far questo devono potersi muovere, quindi sia gli adulti e a maggior ragione i giovani, quando poi si emancipano dai genitori, effettuano la cosiddetta dispersione, vale a dire vanno a cercare una zona libera dove poi poter insediarsi e costruire una loro propria esistenza e famiglia. Si muovono nel territorio e possono incontrare alcune barriere, spesso artificiali, come strade, elettrodotti, edifici, canali artificiali che l'uomo ha costruito per le proprie esigenze, che possono essere invalicabili per gli animali. È chiaro che poi questo discorso va contestualizzato per le varie specie, perché quello che ad esempio può essere insormontabile per una lucertola o un riccio, magari non lo è per un capriolo o un cervo che saltano. Quindi bisogna fare anche poi riferimento ai vari gruppi di specie e anche alle loro capacità di movimento. Lei mi ha parlato di studi chiamati road mortality, mortalità stradale, che rivelano che vengono uccisi sulle strade da 10 a 100 milioni di mammiferi in Europa, valori sottostimati poiché molti animali vanno a morire lontano dalla strada, oppure sono resi irriconoscibili dal traffico, oppure mangiati dai predatori. Gli incidenti non avvengono in modo uniforme, ma si concentrano in tratti stradali e ferroviari, dove insieme al volume di traffico si determinano caratteristiche ambientali tali da attirare gli animali. Oppure ci sono corsi d'acqua, fiumi, canali, siepi alberate, comunque elementi lineari del territorio utilizzati dagli animali per spostarsi, e dove questi intersecano elementi e infrastrutture ad uso umano si determinano punti di conflitto. A fronte di questa perdita di vite e di biodiversità, esiste una consapevolezza da parte della politica? Ci sono delle linee guida europee? A livello europeo, il documento di riferimento più importante in questa fase è la strategia della Commissione europea per la biodiversità fino al 2030, che parte da dei presupposti anche legati alla crisi sanitaria ed economica, per poi definire il concetto di capitale naturale, quindi i servizi ecosistemici, i benefici che la natura offre alla società umana, e poi entra un po' nel contesto parlando anche per categorie, per ad esempio la riqualificazione e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, piuttosto che la tutela dei boschi, piuttosto che anche la parte relativa alle aree verdi urbane. Lei mi diceva che in Italia si intravede qualche cambiamento in questo contesto. È un percorso avviato poiché ci sono processi a livello del Ministero dell'Ambiente e di ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che dal 1997 ha promosso un'iniziativa su scala nazionale a proposito di reti ecologiche e in favore della continuità ecologica del territorio, e che a sua volta deriva dai contenuti della direttiva Habitat della Comunità Europea del 92, a cui è connesso il progetto Natura 2000 di Rete Ecologica Europea. Tra l'altro ISPRA pubblica annualmente il rapporto qualità ambiente urbano, al quale collabora anche la LIPU. Purtroppo però nel passaggio dalla teoria alla pratica ci sono dei problemi, poiché oltre alle buone pratiche assistiamo ad attività negative talvolta fuori legge. Ci può descrivere cosa accade esattamente? Parlo ad esempio dello sfalcio dei corsi d'acqua per una presunta sicurezza idraulica, che però sappiamo, cioè gli scienziati ci hanno detto che non è così, va a dire la vegetazione è importantissima che ci sia lungo i corsi d'acqua, purtroppo in molti casi viene tolta, viene eliminata, e questo anche nel pieno della stagione riproduttiva dell'avifauna, ma anche di altre specie, va a dire quella in cui ci troviamo, la primavera, e questo confligge con le normative che venivano richiamate anche all'inizio della trasmissione, ad esempio la 157-92, che è la legge nazionale per la tutela della fauna, che tutela anche i nidi degli uccelli. D'altra parte, sul piano, diciamo, cittadino, abbattimenti e potature di alberi, di siepi, sono ormai all'ordine del giorno. E anche in questo caso, in diverse situazioni, si va contro sia alle buone pratiche ma anche alla legge. E parlo in particolar modo del decreto ministeriale sui CAM, i criteri ambientali minimi, che è entrato in vigore lo scorso anno, emanato dal Ministero dell'Ambiente, che ad esempio vieta le capitozzature, che sono le potature drastiche degli alberi, richiede che venga fatta attenzione nella gestione del verde anche alla fauna, e questo però ancora in molti casi non vediamo una piena applicazione. In questi giorni stiamo seguendo una vicenda a Pietrasanta, dove per uno dei tanti cosiddetti progetti di riqualificazione vengono eliminati tutti gli alberi. Tra l'altro viene fatto ancora una volta in questo periodo, che oltre a distruggere gli alberi distrugge anche la presenza di nidi e di altre forme di animali che sono presenti su queste piante. A livello internazionale ci sono i progetti che, come si diceva, derivano dalle direttive Habitat. Nel nostro paese si parla di reti ecologiche, che sono infrastrutture naturali che connettono poi gli ambienti di un territorio. Ci sono delle aree centrali che sono delle vere e proprie riserve di biodiversità. E ovviamente la rete ecologica è un qualcosa a vari livelli, per cui si passa dalla scala internazionale a quella nazionale, a quella regionale, fino a quella locale. È chiaro che se io considero una rete ecologica a livello nazionale, le aree centrali saranno i parchi nazionali, le riserve, le zone protette ai sensi della Convenzione Ramsar per le zone umide e così via. Se io invece faccio una rete ecologica locale o comunale, le aree centrali saranno i parchi pubblici più grandi, i giardini più importanti. Ci sono poi delle zone cuscinetto intorno alle aree centrali, che servono anche per attutire gli impatti che derivano da quella che si chiama la matrice, vale a dire la tipologia di paesaggio prevalente. In Italia abbiamo tre matrici principali, una di tipo agricolo, una di tipo forestale e una urbana. Poi c'è l'altro elemento fondamentale perché rete sia, che sono i corridoi di connessione, quindi il corridoio ecologico lungo il quale si spostano gli animali, poi a un certo punto viene costruita una strada e quindi il corridoio viene disconnesso. Cioè gli animali, se una siepe a un certo punto ci passa una ferrovia o un canale con le sponde verticali o una strada, la siepe, diciamo, non funziona più da corridoio di connessione. Se il percorso negativo derivante dalla costruzione di infrastrutture, di edifici, è la frammentazione dell'ambiente, il percorso che cerca di rinaturalizzare, di controvertire questo impatto si chiama deframmentazione, quindi è la ricucitura della rete ecologica. E questo avviene con anche delle opere strutturali, oltre che opere a verde, che permettono appunto agli animali di muoversi, di spostarsi attraversando l'infrastruttura in sicurezza. Si parla di sottopassi, tunnel faunistici, oppure di ecodotti, ponti faunistici, se diciamo, il passaggio avviene al di sopra. E ci sono diversi esempi. Penso agli interventi fatti vicino a Trieste, nel Parco Ticino. Noi come LIPU qualche anno fa abbiamo collaborato con la provincia di Lucca ad un progetto che ha portato alla realizzazione della circonvallazione del paese di Castelnuovo Garfagnana, mediante il quale sono stati realizzati sia dei sottopassi, dei tunnel per la fauna di piccola taglia, che possono essere percorse da ricci, da anfibi, da rospi, ma anche l'ecodotto Cavatina, che in pratica è una galleria artificiale, però sul tetto di questa galleria artificiale è stato ricostruito l'ambiente, tra l'altro c'è anche una parte di vigneto, di ambiente agricolo, che permette a qualsiasi animale, in questo caso anche di grossa taglia, quindi lì sopra ci passa tranquillamente un capriolo, un cervo, un cinghiale o qualsiasi altro animale, e quindi lui non si accorge nemmeno di attraversare la strada. E queste sono proprio le opere cosiddette di deframmentazione. Ringraziamo infinitamente Marco Dinetti per le sue esaurienti risposte ai nostri quesiti. Vi ricordiamo il sito www.lipu.it, in cui potrete trovare ulteriori aggiornamenti, e il sito www.agrofauna.it, suggerendovi di tenere d'occhio gli interessanti seminari tematici che si stanno svolgendo proprio in questo periodo. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow, and now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on. Sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. Concludiamo la puntata con un'altra lettura tratta da Roadkill e la dedichiamo al piccolo pullo di Codirosso che abbiamo incontrato sull'asfalto mentre ci recavamo in abito da sera a teatro. Piccolissimo, caduto dal nido, sarebbe stata l'ennesima vittima di Roadkill se non avessimo avuto appuntamento con la musica e se un lavoro di squadra della redazione non lo avesse preso in cura. Lo abbiamo chiamato Handel, come il compositore dell'opera che stavamo andando ad ascoltare. Nero. 10 ottobre 2011, Autostrada del Sole, dopo Melegnano, ore 14. Sono stato a Milano. Al ritorno, appena l'autostrada ha aggredito la campagna, mi sono accorto che gli occhi correvano fissi al bordo della strada. Questa è zona di nutrie, pensavo. Non è facile distinguere cosa siano i vari oggetti, ormai tutti invariabilmente ingrigiti, tendenti al nero. Tessuti, avanzi di copertoni e parti meccaniche, bottiglie d'acqua e immondizia senza forma, erba verde con gli steli e i bordi anneriti. Dopo pochi minuti ho riconosciuto la sagoma di nero, per tempo, e sono riuscito a fermarmi per bene, senza inchiodare. Con indosso il mio giubbotto arancione che mettevo per la prima volta, ho scattato le mie foto, disturbato dal rumore dei tir che mi sfrecciavano vicino, ma anche dallo sporco, dalla polvere che si deposita su tutto. L'animale, da quel tappetino di pelo annerito, era scappato via da tempo. Non sono nemmeno riuscita a capire cosa fosse. Ho temuto un gatto, sfigurato dal tempo, ma muso e coda farebbero pensare ad altro. Che resti pure non identificato, non per questo è meno vero, anzi. Nero resterà un animale ignoto, che valga per tutti senza nome, come in quei monumenti ai caduti in guerra, senza identità. Ho pensato che proprio per non averne una precisa ne assume una superiore, e la sua sofferenza è trasfigurata, universale. Si vede chiaramente che in quel punto la barriera è più bassa, e l'animale lì ha tentato di attraversare. Proseguendo il mio viaggio verso sud, verso le montagne, continuo a guardare l'asfalto. Spesso, molto spesso, a interrompere il monotono ritmo delle strisce che delimitano le corsie, infinitamente parallele, vedo, ora qui, ora là, a comparsa random, come in un videogioco, una macchia bianca o una grigia, sul cui margine, ogni tanto, si levano filamenti di pelo, di penne. Ognuna di quelle macchie un tempo era un animale. Chissà quanto tempo fa. Chissà quale. You talk to me as if from a distance, and I reply with impressions chosen from another time, time, time, from another time. E con questa lettura vi saluta Anna Granata, la voce che vi ha accompagnato fino qui, insieme a tutta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Zenone Sovilla, Francesco Pagnè, Gianni Ferrarotti e Gianluca Masala. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, la numero 590, stesse frequenze, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.